anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records. Vi avverto che è l'ultima puntata prima della pausa estiva, non l'ultima in definitiva, facciamo le corna come si suol dire, ma l'ultima prima che anche qui il vostro penafuoco se ne vada in vacanza per poi riprendere le trasmissioni, spererei verso fine settembre, inizio ottobre. Mi do un paio di mesi di pausa per ricaricare le energie, le idee e la pompa inaudita, soprattutto, che di quello ce n'è bisogno, ce n'è sempre bisogno, direi. Però ecco, puntata che raccoglie un po' i ritrovamenti vinilici di questa stagione, che non sono riusciti a trovare per varie ed eventuali spazio nelle altre puntate, e quindi diciamo ve le ho messe un po' tutte qua stasera per salutarci. In realtà non sono tantissimi, e poi soprattutto i generi sono abbastanza diversi, dovrò fare un po' di opere funamboliche stasera per raccordare un po' il tutto, ma non le farò perché più che altro ci ascolteremo musica stasera. così giustamente ultima puntata estiva, è bene più ascoltare la musica che non stare ad ascoltare me con tutte le minchiate che vi racconto. E come sempre, come di consueto, prima di iniziare ad addentrarci tra i solchi dei vinili recuperati, ricordiamo i nostri indirizzi per mettersi in contatto qui con noi di Radio Wombat. Il nostro sito è sempre radiowombat.net, la nostra frequenza in onde medie. Se abitate nei dintorni di Firenze o ci state passando in macchina, è sempre 1359 1359, rigorosamente in onde medie, in AM. Mi raccomando, non cercateci in FM o in MW perché non ci siamo. Siamo solo ed esclusivamente in AM per la zona di Firenze, per il comune di Firenze, o se no, appunto in streaming sul nostro sito radiowombat.net. La nostra mail è sempre la stessa, posta wombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze, e ci troverete lì con tutte le ultime novità della radio, anche se ovviamente inutile dirvelo. Siamo alla fine del periodo estivo, alla fine di luglio, gran parte della radio è giustamente già in vacanza, però vi potete andare a riascoltare tutte le vecchie trasmissioni, i vecchi podcast che sono andati nel corso degli anni, o se no, ci aspettateci fiduciosi per settembre con ritorno del palinsesto nel tutto il suo potentissimo insieme. Bene, avevo detto che parlavo poco stasera e ci ascoltavamo un sacco di musica, invece già ho già fallato le premesse iniziali, però partiamo subito con il primo disco. Primo disco, torniamo indietro alla fine degli anni 30, agli inizi degli anni 40, stiamo parlando di jazz. In particolare, nell'epoca d'oro dello swing e delle big band, siamo alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40. Questo è un disco interessante, per questo che poi era stato recuperato, perché in realtà si chiama Who is Who in Jazz? Louis Armstrong Alumni, ovvero gli alunni di Louis Armstrong. In realtà questo disco è presentato da un altro grandissimo band leader di quella fine degli anni 30, ovvero del vibrafonista Lionel Hampton, che presenta due allievi appunto delle big band di Louis Armstrong, ovvero Cozy Cole al basso e Marty Napoleon al piano, rispettivamente. Poi questa è una discreta formazione, perché oltre a Marty Napoleon al piano e appunto Cozy Cole alla batteria, scusate, troviamo Arvel Shaw al basso, Lionel Hampton al vibrafono, Joe Munrani al clarinetto, Johnny Lettman alla tromba e Russell Big Chief Moore al trombone. Quindi proprio classica band dell'era dello swing. Inutile continuare a parlare ancora, e allora andiamoci a sentire il primo pezzo di questi fantomatici alunni di Louis Armstrong. Loro appunto sono Cozy Cole e Marty Napoleon, guidati appunto da Lionel Hampton. Siamo alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, E questo pezzo è il primo del lato A, è Cabaret. Ovviamente qui ai vinili di recupero di Basement Records, a Radio Wombat, e dove se no? Thank you. questa appunto era Cabaret di Cozy Cole e Marty Napoleon, che poi erano due strumentisti di questa big band swing. Swing in realtà direi dalle sonorità già in una fase in cui si sente già i primi prodromi di quello che poi diventerà il bebop da lì a poco. Non so esattamente quando è questo brano che abbiamo sentito, però secondo me siamo già negli anni 40. Il bebop appunto nascerà da lì a poco e siamo già qui nella seconda fase dello swing. Si sente già appunto quello che poi porterà lo swing a essere bebop, grazie alle intuizioni di grandi geni come Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Duke Ellington, Lenny Tristano e chi più ne ha più ne metta, solo per citare i primi che mi vengono in mente. Però qui siamo ancora appunto nella fase più puramente swingante. Però se ci fate caso e vi cade l'orecchio, si sente già un qualcosa di quello che verrà nella musica jazz negli anni a venire. Io a questo punto andrei ad ascoltare un altro brano di questo Who is Who in Jazz, appunto del Louis Armstrong Alumni featuring Cozy Cole, e andrei sull'altro lato, andrei sul lato B questa volta, e vi farei ascoltare Mack the Knife, primo brano della seconda facciata, brano che in realtà era stato scritto da Kurt Weill e da Bertolt Brecht, due autori appunto del teatro tedesco molto molto apprezzati dai jazzisti e non solo da loro, poi infatti influenzeranno tanti altri musicisti a seguire, i nostri Kurt Weill e Bertolt Brecht, nostri in senso lato ovviamente. E questa composizione del duo tedesco è Mack the Knife, suonata appunto da Lionel Hampton, da Cozy Cole, Marty Napoleon e compagnia swingante. Qui siete sempre ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat, dove se no? questa era Mack the Knife, appunto dell'orchestra di Fletcher Anderson, accompagnato da Cozy Cole e Martin Napoleon. E da questo disco ci andremo ancora ad ascoltare un brano, in questo caso l'ultimo brano della seconda facciata, ovvero il brano che conclude, che chiude proprio l'LP, questa raccolta di Who is Who in Jazz. Mi ero scordato che era stato di dirvi che è stato pubblicato nel 1977, edito appunto da questa etichetta che si chiama proprio Who is Who in Jazz, etichetta che la cui sede si trovava a Gillette nel New Jersey, curiosità. E a questo punto andiamoci ad ascoltare l'ultimo brano di questo lato B, di questo vinile di raccolta di questo finale dell'era swing, e ci andremo ad ascoltare Back Home Again in Indiana. Sono sempre loro, Cozy Cole, Martin Napoleon, Fletcher Anderson e il resto della loro orchestra. Qui siete sempre ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente a Radio Wombat. Thank you. questo era l'ultimo brano che chiudeva il disco degli Who Is Who in Jazz, appunto, del Louis Armstrong Alumni, featuring Cozy Cole e Martina Foleon, senza contare appunto che il band leader di questa formazione appunto era Lionel Hampton al vibrafono. E dopo questo salto appunto negli anni 40, in piena era, anzi nella fase finale, come avevamo detto prima, dell'era swing, facciamo un passo indietro con il prossimo vinile. Un passo indietro in senso temporale, ovviamente. Un passo indietro nel senso temporale, perché qui stiamo andando a parlare di un grandissimo band leader, sempre dell'era swing. Qui siamo in una fase di passaggio tra il suono di cosiddetto di New Orleans, ovvero degli inizi del Novecento, di quando appunto si iniziò a definire il jazz oltre il ragtime. E stiamo parlando di Fletcher Anderson, dell'orchestra di Fletcher Anderson. È stata una delle band più leggendarie tra gli anni 20 e gli anni 30, senza ombra di dubbio. Tra quelli che riuscirono a spingere appunto avanti questa che allora era un nuovo modo di suonare, ovvero il jazz, che poi venne definito in quel particolare periodo, poi diventerà appunto swing. E l'orchestra di Fletcher Anderson è stata leggendaria soprattutto per le qualità di Anderson nella perenne ricerca di talenti nei vari strumenti. Basti ricordare giusto un paio di nomi a caso che passarono e si fecero le ossa nella band di Fletcher Anderson. I primi due nomi che mi vengono in mente sono un certo Louis Armstrong e un certo Benny Goodman. Giusto per dire i primi due che mi vengono in mente così a caso. E appunto andiamoci a sentire il primo brano che ho selezionato per voi stasera da questa raccolta dei grandi successi di Fletcher Anderson. Il primo brano che ci andremo ad ascoltare è il brano più antico, più vecchio di questa raccolta. È un brano del 1924, quindi addirittura la prima metà degli anni 20, e questo brano è Go Along Mule della Fletcher Anderson Orchestra. E siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, chiaramente qua su Radio Wombat, e dove se no. Thank you. E questa appunto era Go Alone Mule della Fletcher Anderson Orchestra, brano appunto del 1924. Ancora qua si sente benissimo il collegamento arcaico appunto con quello che era il suono di New Orleans, band dalle formazioni ridotte, derivate appunto dalle marching band del Mardi Gras di New Orleans. Però Fletcher Anderson, se gli possiamo annoverare dei meriti, oltre a essere un grandissimo band leader, autore e scopritore di talenti strumentali, fu uno dei primi, aveva una formazione classica, perché nonostante fosse un nero nato da genitori di colore, cresciuto nel sud degli Stati Uniti, ebbe la fortuna che i suoi genitori erano per lo standard dell'epoca abbastanza abbienti, avevano tutti e due un lavoro fisso e gli insegnarono fin dalla più tenera età a suonare gli strumenti. Poi Fletcher Anderson si specializzò nel piano, anche se si era sempre rammaricato di non avere il talento di un Johnson o di un Artethum o di un Fats Waller, però appunto la sua formazione era, diciamo, classica, e quindi ha avuto un approccio diverso verso la musica jazz e il suono di New Orleans in particolare, e ebbe l'intuizione appunto di moltiplicare i suoni, ingrandendoli, della classica marching band di New Orleans e di quello che poi diventerà l'archetipo della classica big band swing di qualche tempo successivo. Infatti le trombe diventeranno due o tre, come i sassofoni stessi, e il clarinetto resterà sempre a essere un po' in quella prima fase lo strumento principe per gli assoli, anche se poi si passerà appunto con il corso degli anni alla cornetta, alla tromba e poi al sassofono. Però in questo caso tromba, sassofoni e trombone fanno parte proprio di accompagnamento della band in questa fase. Questo è un brano, il prossimo che ci andremo a sentire, dell'inizio degli anni 30. La band di Fletcher Anderson annoverava anche il grande come talento artistico ma piccolo come statura Don Redman, una delle figure centrali di quell'inizio degli anni 30 per l'orchestra di Fletcher Anderson. E che aggiungere? Questo in realtà è un brano che è di Jerry Roll Morton. Ve ne ho già parlato ampiamente su queste frequenze, ma è uno dei più grandi strumentisti e autori di quello che era un po' l'antenato del jazz di New Orleans, ovvero il ragtime, e poi visto quanto era modesto, Jerry Roll Morton si fregiò anche di essere il padre del nascente jazz, anche se questo titolo poi se lo sarebbero affibbiati in molti musicisti di quel periodo. Però devo dire che Jerry Roll Morton è stata una figura cardine di quei primissimi anni, dei primissimi vagiti di quello che poi verrà chiamata universalmente musica jazz. E questa questo brano si intitola The New King Porter Stomp, appunto di Jerry Roll Morton, interpretato dall'orchestra di Fletcher Anderson. 1932, questi sono i vinili di recupero di Basement Records e naturalmente questa è Radio Wombat. Questo era New King Porter Stomp di Jerry Roll Morton, interpretata dall'orchestra di Fletcher Anderson nel 1932. Ma siccome siete abituati da me medesimo, dal vostro fenafoco, a lunghe, anche lunghe canzoni, con questi brani particolarmente datati, non mi sento molto a mio agio, che durano solo appunto la durata di una facciata di un vecchio 78 giri, quindi tutto entro i 3 minuti, e visto che le canzoni per i miei standard durano così poco, ho arbitrariamente deciso che ci ascolteremo un altro brano da questo disco, da questa raccolta appunto delle varie incarnazioni delle orchestre di Fletcher Anderson. E adesso sul lato B di questa raccolta, appunto, che faceva parte dei grandi del jazz, edito dalla Fabri Editori negli anni 70, ci andremo ad ascoltare un brano che, quando ho letto il titolo, ho detto non posso non metterlo, andiamo avanti di circa pochi anni più in là, 5 anni più tardi, abbiamo appena scavallato la seconda metà degli anni 30, nel 1937, e questa è sempre l'orchestra di Fletcher Anderson con Rhythm of the Tambourine. Fletcher Anderson e la sua orchestra, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Record, naturalmente Radio Wombat. Male, ero stato sorpreso dalla fine del brano, perché mi stavo guardando e gustando il prossimo disco che metterò su, e quindi mi ero perso di vista il disco che stava andando. Poi ve l'ho detto, non sono abituato a canzoni che durano così poco, e infatti il prossimo grandissimo artista, sempre di ambito jazz, anche se rispetto poi a Fletcher Anderson, completamente un'altra epoca, si può dire tranquillamente completamente un'altra musica, anche se è sempre racchiusa dentro a quel calderone e il grande coperchio che viene definito jazz. Ma appunto qui siamo in questo specifico caso a metà degli anni 70, quindi immaginatevi che salto triplo rispetto alla metà degli anni 30, 40 anni dopo. Infatti il jazz avrà una svariate evoluzioni nel frattempo, e questa è una delle sue ultime. Anche al giorno d'oggi, vi immaginate, stiamo parlando del 1975, siamo ormai oltre l'esplosione del free jazz. Qui stiamo parlando addirittura forse di qualcosa che non so neanche se amassero ancora definirsi free jazz o già great American great black music. Stiamo parlando però di uno dei grandi, dei pesi massimi appunto del free jazz degli anni 60 e degli anni 70. Stiamo parlando del grandissimo Archie Shepp, tenor sassofonista che ho avuto l'immensa fortuna di poter ascoltare anche dal vivo qualche anno fa al Teatro delle Ferriere a Follonica, sotto, mi ricordo, un diluvio universale. Fortunatamente, anche se era estate, era al chiuso, perché quel giorno veniva giù veramente il cielo e nonostante i suoi 80 anni suonati, Shep riuscì comunque a suonare per praticamente più di 2 ore, per 2 ore e mezzo, non fermandosi mai e continuando a fare l'amore con il suo sassofono, e non li avrebbe mai dimostrati gli anni che in realtà aveva se uno non conosceva la sua reale età anagrafica. Che dire, appunto, è uno dei grandissimi del free jazz e della nuova onda jazzistica nata appunto con gli anni 60 e in poi. Però volevo leggervi appunto uno stralcio dalla presentazione, dalle ricche note di copertina di questa raccolta di suoi lavori del 1975, fondamentalmente ripresi dal suo album appunto di quell'anno, Black Lion. E c'è una dichiarazione di Archie Shepp appunto all'interno dell'album, e parla appunto di quello che poi verrà definito free jazz, ovvero di quello che lui vedeva nella nuova musica che stava suonando, lui insieme ovviamente all'iniziatore del free jazz, di Ornette Coleman, di Don Cherry, di Albert Tyler, di Cecil Taylor, di Eric Dolphy, di Roswell Rudd, me ne verrebbero 10.000 in mente, però appunto giusto per citare i massimi nomi del lato free, senza contare ovviamente John Coltrane che è tutto e il contrario di tutto, che Coltrane è Coltrane, punto e basta, non gli puoi mettere un'etichetta addosso. Però tornando appunto a noi, Archie Shepp, la nota di copertina interna è una parte, un estratto da una sua intervista, e ve la voglio proprio leggere testualmente. Il nuovo jazz non è che il jazz di una volta. Non c'è nulla di veramente nuovo in esso, se non il messaggio che prima d'ora non avrebbe potuto essere formulato. E con questo messaggio è la verità. Racconta la sofferenza di un popolo. Parla dell'emancipazione, della distruzione dei ghetti, del fascismo. Io sono un musicista jazz nero, un padre di famiglia nero, un americano nero, un antifascista. Io sono indignato per la guerra, il Vietnam, lo sfruttamento dei miei fratelli, e la mia musica racconta tutto questo. Questo ovviamente era un estratto da un'intervista di Archie Shepp, e volevo leggervi la descrizione del lato B, appunto, che ci andremo adesso ad ascoltare con il primo brano del lato B di questa raccolta di Archie Shepp. Ci andremo ad ascoltare Crucificado. E questa è la descrizione che ne dà Bruno Schiozzi. Crucificato, che apre il lato B del disco, è un'ulteriore conferma della svolta sceppiana. È una sorta di bossa nova che mai avrebbe figurato nel repertorio free precedente. Forse sarebbe apparsa brevemente in uno di quei frequenti scimmiottamenti che Shep dedicava alla musica di consumo. Tra l'altro, all'inizio, Archie omaggia palesemente il re della bossa nova al sax tenore, ovvero Stan Getz. E non v'è apparentemente derisione o scherno nella sua imitazione. Subito dopo, in ogni caso, Shep è tutto se stesso, con i suoi guaiti, con le sue frasi mozze barcollanti, con il suo effettismo marcato, ma non il tutto con il tutto estremo rispetto armonico e ritmico. È così che nella conclusiva Miss Tony, che non ci ascolteremo, vi avverto, perché già il brano che ci andremo ad ascoltare, Crucificato, dura quasi 12 minuti, e anche la formula, l'unisono di due fiati nell'esposizione di questo e degli altri temi, ad eccezione di Lush Life, grande classico di Billy Strayhorn, che è la prima composizione del lato A, rientra nella tradizione jazzistica. Ma la musica di Shep si stacca da questa tradizione nel corso del suo svolgimento solistico. Qui, come si è detto, l'esperienza free riemerge, pur debitamente inquadrata. Tradizionale è anche il pulsare dei due ritmi e l'accompagnamento del pianoforte, che si spinge poi in episodi solistici in ogni brano con grande rilevanza. Il trombonista Charles Greenlee cerca di riproporre i fasti di Roswell Rudd e spesso ci riesce. È forse un poco falloso e non sempre ispirato, ma è comunque una spalla robusta e sicura. Certamente tanto Greenlee quanto i suoi partners, e in modo particolare il batterista Beaver Harris, dimostrano di non essere dei veri musicisti e degli ottimi jazzisti. Il free non consente sempre una valutazione perfetta delle doti dei suoi esecutori, e in più di un'occasione si è constatata la scarsa disponibilità musicale di alcuni suoi esponenti impegnati su fronti meno evasivi. Shep e il suo gruppo dimostrano di avere in tutto e per tutto le carte in regola, e questo disco raccoglie appunto la loro prima chiarificazione. Stiamo parlando dell'album, appunto, Black Lion del 1965. Questo è Archie Shep e questa è Crucificado. Siamo sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records e questa, naturalmente, è Radio Wombat. Rumori stianti botti. decisamente, decisamente bossa nova, più che free jazz, questo pezzo bellissimo di Archie Shepp e la sua band. Questo era Crucificado, molto bello, 1975, dal suo album appunto di quell'anno, Black Lion. E ora siamo giunti al primo salto fin d'arico. Vi avevo anticipato a inizio trasmissione che c'era un po' di mischione di generi stasera, visto che è un po' la raccolta dei brani, dei dischi di recupero che non sono riusciti a trovare una collocazione nelle precedenti puntate di Basement Records. E appunto ora dalla bossa nova free jazz di Archie Shepp ce ne andremo al purissimo, purissimo folk di Pete Seeger, una autentica leggenda del folk americano, amico allievo di Woody Guthrie. La leggenda, l'autentica leggenda del folk americano, che nel caso in cui foste appassionati del genere o semplicemente curiosi, vi invito ad andare a recuperare una vecchia puntata appunto di Tonight Alive, monografica su Woody Guthrie. E appunto questo è il suo amico sodale e allievo Pete Seeger, che qui siamo tra gli anni 40 e gli anni 50. Questo è un disco, una raccolta su un'etichetta, su etichetta tedesca, Time Wind, tra l'altro. Non leggo, non riesco a trovare la data di pubblicazione di questo album, ci interessa relativamente, è indubbiamente tedesco, con tutte le sue note di copertina in tedesco, edito appunto dalla Time Wind di Amburgo. Però una delle cose che posso imputare appunto a questa imputare in questo caso all'etichetta tedesca che ha pubblicato questa raccolta di Pete Seeger, è che, come è spesso capitato qua a Basement Records, hanno invertito i centrini, ovvero hanno messo il centrino del lato A sulla seconda facciata del vinile, e così il contrario. Però fortunatamente ormai un po' d'occhio per i solchi mi è venuto, c'era qualcosa che non tornava nelle durate dei brani e della lunghezza dei solchi, e quindi uno più uno fa due, andando a controllare i due lati di questo album, di questa raccolta vinilica. Sono riuscito a fare caso dell'inversione del centrino prima di fare l'ennesima figura pessima, che ormai fortunatamente a cui sarete abituati, ma questa volta ce l'ho fatta a prevenire questa ennesima gaffe del vostro fino a poco. E da questo finto secondo lato, in realtà primo lato, adesso ci andremo ad ascoltare un brano che, appena vi leggerò il titolo, non potevo non mettere, ovvero Kisses Sweeter Than Wine, baci più dolci del vino. E questo è la leggenda del folk americano Pete Seeger, e siamo sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, ovviamente Radio Wombat. New York, he used to sing a song that went la la la la la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da used to hear him sing this, and he thought, well, I like that, but I don't quite dig that lack of rhythm. So he changed it around a little. So instead of being la la da dee dee dee dee dee, why he was singing it like this. A big 12-string guitar going. As a matter of fact, we could sing this all together. When I was a young man, I'd never been kissed. I got to thinking over what I had missed. I got me a girl and I kissed her, and then, oh Lord, I kissed her again. Oh, kisses sweeter than wine. Try singing that. Oh, kisses sweeter than wine. I asked her, would she marry and be my sweet wife, and we would be so happy all of our life. I begged and I pleaded like a natural man, and then, oh Lord, she gave me her hand. Oh, kisses sweeter than wine. We're just about four. They all had sweethearts a-knocking at the door. They all got married and they didn't hesitate. I was, oh Lord, the grandfather of eight. Oh, kisses sweeter than wine. What happened a long time ago. We had a lot of kids, trouble and pain, but oh Lord, we do it again. E questa era Kisses Sweeter Than Wine. Come avete potuto sentire, era il rifacimento di un classico della musica irlandese che a quanto pare era stato fatto conoscere da Pete Seeger, dal grandissimo bluesman Huddy Ledbetter, detto Led Belly, veramente autentica leggenda del country blues. Chissà, prima o poi farò una puntata monografica anche sul grande Led Belly, ci starebbe proprio alla stragrandissima, anche solo per la faccia di bronzo che aveva avuto quando imprigionato in una delle sue tante permanenze nei penitenziari americani, aveva fatto una canzone dedicandola al governatore di uno degli stati del sud, per farsi graziare appunto e farsi appunto uscire dalle patrie galere, e se non mi ricordo male ci riuscì pure appunto. Ma questo era Huddy Ledbetter, detto Ledbetter. Però ritorniamo appunto a Pete Seeger. Ora mi è venuto, lo diceva appunto Pete Seeger all'inizio della canzone, quindi ci ha fornito un'altra chicchina appunto a proposito del brano precedente. E adesso, sempre da questa raccolta tedesca a nome Folk People, Pete Seeger, ci andremo ad ascoltare il primo brano del lato B, ovvero The House Carpenter, sempre qui naturalmente ai vinili di recupero di Basement Records su Radio Wombat. Well met my own true love. Well met, cried he. Well, I've just returned from the salt, salt sea, and it's all for love of thee. I could have married a king's daughter there, so freely she would to me, but I slighted her and all her gold. Oh, for the love of thee. If you could have married a king's daughter there, I'm sure you're much to blame, for I've lately been married to a house carpenter, and I think he's a nice young man. Well, if you forsake your house carpenter and come along with me, I'll take you where the grass grows green, by the banks of the bonny blue sea. Well, if I forsake my house carpenter and go along with you, why, you'd have nothing to maintain me on. Oh, then what would I do? I have three ships upon the main, all sailing for dry land, and 25 jolly sailor boys, all at your command. Well, she dresses herself in rich array, all from her golden store, and she glittered and she glistened as on the tree street she walked, just like a shining star. She called to her sweet little babes, she gave them kisses three, saying, stay at home, my sweet little babe, keep your papa good company. They'd not been sailing but a long winter's night, I'm sure it was not three, when she throwed her arms round her true lover's neck, weeping most bitterly. Oh, why do you weep, my fair young maid? Do you weep for your golden store? Or do you weep for your house carpenter that you never shall see anymore? I do not weep for my house carpenter, nor for my golden store, but I do weep for my sweet little babe that I never shall see anymore. They'd not been sailing but a long winter's night, I'm sure it was not far, when under the deck the ship sprung a leak and sunk to rise no more. Once around spun our gallant ship, twice around spun she, three times around spun our gallant ship, and sunk in the cold, cold sea. E questa era House Carpenter di Pete Seeger, molto più un folk classico rispetto alla ballata di origine irlandese ascoltata precedentemente. E a questo punto siamo al prossimo salto di genere per il prossimo disco, e loro sono i Rasa con Everything You See Is Me, copertina molto particolare, appunto, che c'è questa eclisse solare, non so, questa si potrebbe definire luna rossa, ma non so se si tratta della luna o appunto una foto particolare e filtrata del sole. Non so dirvi un granché di questo gruppo, perché ammetto pubblicamente qui sulle onde radio di non conoscerli. se non perché me le avevano già nominati degli amici. Però sembra che sia una vedo executive producer Sri Ramadas, quindi molto influenzati dall'arte orientale, però diciamo che essendo un disco, un album uscito alla fine degli anni 70, precisamente nel 1979, l'influenza orientale in alcuni casi si faceva sentire molto dopo appunto lo sdoganamento di Ravi Shankar da parte dei Beatles, e questo disco è diciamo in quella via di mezzo tra il rock e il pop sperimentale. Che dirvi, ascoltiamolo. Non vorrei dire uno strafalcione per un altro, tanto vabbè, se sarete ormai abituati. Un disco che comunque è inglese, arriva dall'Inghilterra, e quindi l'influenza dell'ex colonia indiana probabilmente si faceva ancora più sentire. Poi appunto lo sdoganamento partì appunto con Ravi Shankar e i Beatles. Qui siamo su altre coordinate, più roccheggianti, e andiamoceli ad ascoltare questi Rasa con Everything You See Is Me. E siete sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Of lights, I am the sunshine. Questo però mi sa che era il singolo e di orientaleggiante c'è poco, ti avverto. Thank you. questi erano il Raza con Everything You See Is Me, anche se il produttore è appunto sri-lankese, influenze orientaleggianti, qui insomma siamo più in ambito puramente pop, neanche rock. Questo era il singolo appunto di questo, che poi definitivamente è un album. Ricordo la formazione ora che la leggo nel retro di copertina: Chris McDaniels alla voce, Kelvin Moss, B. Snow, Vakerasvara Pandit, Piers Lawrence, London McDaniels, Dave Webb, Roger Panaski, Webb Thomas, Randy Covens, Anthony Jackson, Randy Brenaker, George Young, Patience Higgins, George Barreiro e Ruderial Blackwell. Erano davvero in tanti, tra l'altro. E ennesimo salto findarico, però stavolta credo che sia abbastanza l'ultimo, o almeno non sarà così, gli altri non saranno così pindarici. Ora andiamo tutti di singoli. Questo è un singolo del 1983 di Phyllis Nelson. Stiamo andando in ambito dance, non si può neanche definirla disco, chiamiamola direttamente dance. Una figura abbastanza minore, decisamente minore. Phyllis Nelson ha avuto qualche brano che era riuscito a affacciarsi nelle classifiche americane, ma poco o niente. Più che altro è stata famosa per essere la madre di Mark Nelson, che poi diventerà uno dei membri della band americana dei Boyz II Men, band R&B, ma non nel senso di rhythm and blues, ma proprio di R&B nel termine di come viene usato oggi, non più come di rhythm and blues, di come veniva usato una volta. E il brano che ci andremo ad ascoltare adesso è Stop, Don't Do This To Me di Phyllis Nelson, 1983, ai vinili di recupero di Radio Wombat, e impostiamo la velocità a 45 giri perché sono singoli. Radio Wombat. Get up. Questa era Phyllis Nelson con Stop, Don't Do This To Me, 1983. Non male, non male. Pensavo peggio, invece niente male, niente male. E adesso andiamo a fare un salto di qualche anno più in là, 1987. Questo sicuramente brano dance al 100%, già un'altra etica ed estetica. Loro sono Stock, Aitken e Waterman. E questo brano, questo singolo è Pack Jammed with the Party Posse. Non ricordo di averlo messo, o se già l'ho messo, perché in una puntata precedente di Basement Records la memoria sapete che mi fa difetto, però evidentemente se l'ho già messo non mi è rimasto in mente e quindi tanto vale riascoltarcelo. Che dire, penso che si sia proprio ancora non... Nell'era acid house, però ormai eravamo lì, sarà l'anno successivo, l'88, questo è del 1987, quindi ancora credo che non la potremo definire acid house, ma la possiamo tranquillamente definire dance. Non ho idea, non mi ricordo assolutamente di questo disco, e quindi adesso ce lo ascolteremo insieme. Stock, Aitken e Waterman with the Party Posse, Back Jammed, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. We'll be right back. Thank you. Questi erano Scott Aitken e Waterman con Peg Jammed with a Party Posse, 1987, Inghilterra. E ora continuiamo sulla stessa linea, anche se di un anno più tardi, un disco che avevo già proposto nel suo lato A, ma adesso ci andremo ad ascoltare un pezzo estratto dal lato B di questo maxi singolo. Loro sono gli Howell, qui siamo già anche decisamente vedendo dalla copertina e dal centrino del disco in piena esplosione acid house inglese. Questo disco è edito dalla 88 Records, ovviamente inglese, edito anche da West Side Music, 1988, e appunto questo brano è Santiago degli Howell, 1988, Inghilterra, acid house. E qui siamo sempre ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. Che chicchina, che chicchina. Questi erano gli Oh Well con l'ultimo brano del lato B di questo maxi singolo del 1988, forse anche un brano più avanti nel tempo rispetto al 1988, decisamente un suono più futuristico rispetto all'88 probabilmente, non lo so. L'impressione che mi ha fatto è questa. Comunque mi piaceva farvelo ascoltare, anche perché questo è l'ultimo vinile della puntata di stasera, ultima puntata in generale di Basement Records e anche di Tonight Alive prima della pausa estiva. E che dire, i saluti sono sempre un po' tristi e malinconici. Saluti per una pausa di un paio di mesi, non vi preoccupate, tornerò più in pompa che mai a settembre barra ottobre. Vedremo quando avrò recuperato le energie e almeno ricominceremo più in pompa che mai. Sempre pompa inaudita, mi raccomando, pompa magna. E che dire, buona estate, buon weekend, buon tutto a tutto e a tuttix. E alla prossima puntata di Basement Records e di Tonight Alive. Buon agosto, buon caldo, buone bolle, buon tutto e ci risentiremo presto. Un bacione a chiunque qui da Radio Wombat, dalla fornace del Wombat, e ci risentiremo prestissimo. Buon agosto a tutti, buon fine settimana e viva Radio Wombat! Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.